mancarai, se te ne vai, mi mancherà la tua serenità, le tue parole come canzoni e vento, e l'amore che ora porti via, mi mancherà. Se ne vai, pure per sempre non so come vivere l'allegria. Amica mia, va via con te, mi mancherai, mi mancherai, perché vai via. Dentro sento te. Sento te, mi mancherà la immensità dei nostri giorni e notti insieme noi, i tuoi sorrisi quando si fa buio, la tua ingenuità da bambina. Con te.